Radio 3 Lezioni di musica. Giovanni Bietti. Il quartetto opera 131 di Ludwig van Beethoven. Seconda parte. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Questa è l'ultima, purtroppo, delle lezioni di musica che abbiamo dedicato ai quartetti di Beethoven. Continuiamo e terminiamo il discorso sul grande quartetto opera 131, scritto nel 1826, quartetto in sette movimenti che Beethoven considerava la sua più grande composizione. Naturalmente dopo questo brano Beethoven scriverà un altro quartetto all'opera 135, non ne parliamo perché ne abbiamo già parlato l'anno scorso, vi ricordo, lo trovate in podcast, è la lezione di musica del 22 aprile 2012, alla quale naturalmente vi rimando per chiudere questo percorso che per me personalmente è stato meraviglioso, esaltante. Abbiamo chiuso la puntata di ieri parlando di questo fantastico movimento con variazioni. Sapete anche che l'opera 131 è diviso in questi sette movimenti che esplorano sette caratteri totalmente diversi e i sette movimenti sono tutti collegati fra loro. In alcuni casi, ne abbiamo visto uno ieri, Beethoven crea proprio un aggancio fra due movimenti contigui, in altri casi invece li lascia separati. Qui il brano finisce, il precedente, il quarto, finisce. Poi scrive una pausa e poi il violoncello inizia al grave, forte, con questa scarica improvvisa che sarà il tema dello scherzo. Quindi il violoncello lo anticipa con questa botta improvvisa nel grave e comincia questo movimento apparentemente leggero che in realtà è uno dei più lunghi mai scritti da Beethoven, perché è un movimento che prende oltre 500 battute, soprattutto se si considerano le ripetizioni, perché ci sono i ritornelli. Il movimento è estremamente lungo, con questo carattere da una parte fantastico, leggero, una sorta di ripensamento dello scherzo fantasmagorico, leggero, fantastico che Beethoven aveva inventato nell'Eroica, nella terza sinfonia, e in più ci sono degli elementi che sono tipici dell'ultimo Beethoven. Il trio è composto da ben tre idee diverse, tre temi differenti. Beethoven ragiona sulla musica popolare, sulle cadenze, sugli accenti, e ha dei temi di una semplicità. E continua a ripeterlo. Sentite, no? C'è questo modo di elaborare i temi, ripetendoli, giocandoci intorno. Ma vi ho detto, in questo trio i temi sono tre, eccone un altro. Questa regolarità ritmica. Abbiamo parlato nelle scorse puntate dei momenti in cui Beethoven innova ritmicamente, queste asimmetrie incredibili, eppure qui sentite. Sentite questo carattere assolutamente regolare, ripetitivo, e sicuramente questo è uno dei frutti del grande lavoro di elaborazione di canti popolari che Beethoven aveva intrapreso circa 15 anni prima, intorno al 1810, per un editore scozzese. Beethoven scrisse quasi 180 arrangiamenti di canti popolari di quasi tutte le nazioni d'Europa. Ecco, molti di questi aspetti ritmici delle ultime opere beethoveniane sicuramente derivano da questo lavoro di elaborazione. Io direi che noi sentiamo direttamente l'inizio, cioè il primo presto e il trio. Questa è una delle classiche forme reiterative beethoveniane. La forma qui è AB, cioè scherzo, trio, poi di nuovo scherzo, di nuovo trio, di nuovo scherzo e poi c'è una coda che comincia da alcuni elementi del trio di cui parleremo fra poco. Thank you. stiamo arrivando al trio. Ecco il primo tema. Ecco la transizione. Sentite lo spazio. Eccolo di nuovo. Sentite il passaggio al secondo tema del trio. Terzo tema. La transizione improvvisa. Questo era naturalmente l'inizio della ripresa dello scherzo. Vi ho parlato di questa forma tipicamente beethoveniana che qui viene addirittura espansa. Viene espansa perché c'è una coda. Beethoven riprende per l'ultima volta il tema dello scherzo, poi accenna il trio come se la forma si espandesse ulteriormente, come se noi avessimo scherzo, trio, scherzo, di nuovo trio. Invece qui lui ha una idea formidabile. Annuncia isolati soltanto i tre temi. Pausa. Pausa. Sentite, no? Questa sorta di montaggio, una modernità incredibile. I frammenti così diversi che in qualche modo erano collegati attraverso dei materiali connettivi, qui sono semplicemente accostati. Un indice, in questo caso è un indice riassuntivo. Alla fine risentiamo solo i tre temi del trio e andiamo verso la fine del movimento. Fine del movimento sulla quale bisogna dire qualche parola. Beethoven ha una grande idea timbrica. Gli strumenti cominciano improvvisamente a suonare tutti quanti sul ponticello. Sentirete che il suono si trasforma, viene deformato letteralmente, diventa quasi grottesco in registro acutissimo. Tornano, come scrive lui, da capo per l'ordinario, quindi suonando un suono normale, finiscono nella tonalità principale, no? E qua c'è uno scivolamento. Questa sarà la tonalità del sesto movimento. Quello che era successo nel passaggio, forse ricordate nella puntata di ieri, dal primo al secondo movimento. Questo scarto, questo scivolamento viene riproposto in senso discendente, passando dal quinto al sesto movimento. Adesso ascoltiamo quindi la coda, l'ultima apparizione dello scherzo, questa sorta di automatico riassunto del trio e poi questa stupefacente invenzione timbrica, il tema sul ponticello. Sentite, lo scherzo sta terminando ed ecco il trio. Ponticello, attenzione. Ecco lo scalino. Qui Beethoven ci prepara direttamente all'ascolto del numero 6, il sesto movimento. Fra lo scherzo e il finale c'è un adagio brevissimo, cortissimo, veramente cortissimo, neanche 30 battute, ma di una intensità incredibile. Lo ascoltiamo direttamente e vi guido un po' durante l'ascolto perché all'interno Beethoven riprende qualcosa che abbiamo sentito nel quarto movimento, la linea spezzata fra i vari strumenti. Ecco l'adagio. Sentite che meravigliosa melodia. Thank you. Sentite qui adesso come continua la viola. Primo violino. Di nuovo la viola. Secondo violino. È il gioco strumentale del tema con variazioni. Stesso gioco, secondo violino, primo violino. E questo colpo che abbiamo sentito è l'inizio del settimo movimento, quindi questo adagio, uno dei brani più intensi della storia della musica. Pochissime battute avete sentito con questa densità, questa intensità melodica formidabile, sfocia direttamente nel finale, finale che ha un piglio drammatico impressionante, quasi da secondo periodo, ma come vedremo con moltissime caratteristiche invece del tardo Beethoven. Avete notato quindi questo... idea di riprendere il dialogo, l'elaborazione del dialogo che abbiamo sentito ieri nel quarto movimento di questo quartetto. Un altro aspetto, forse un po' complesso, ma mi piace farvelo notare, è il tema. Frase conclusiva. Viene ripetuto, sentite come si modifica questa frase conclusiva. La prima volta era e la seconda è. A cosa ci sta preparando Beethoven abbassando questa nota? Ci sta preparando a è esattamente la nota, questo La naturale un po' imprevedibile che avevamo sentito all'inizio del primo movimento. Quindi lui ci sta preparando ulteriormente, ci sta dando altri segnali dell'unità profonda di tutti i movimenti di questo quartetto. Ieri abbiamo parlato del modo in cui Beethoven gioca sulle quattro note iniziali della fuga. La fuga comincia... Ora, uno dei temi di questo ultimo movimento è... Sono le stesse identiche note in un ordine diverso. Sono permutate, non sono invertite, cioè non è una tecnica tradizionale, è una tecnica innovativa. Ma sentite anche, e questa in genere sfugge perché la fuga ha un tempo lento, invece questo è un allegro, ma sentite l'identità ritmica. Fuga, sentite il finale. Esattamente lo stesso ritmo. Quindi vedete quanti sono gli elementi di collegamento, davvero sbalorditivi. Abbiamo parlato anche di come il tema iniziale del finale è questo. Ancora sono... Sono sono sempre queste quattro note onnipresenti che creano un collegamento fra tutte le parti, tutti i movimenti del quartetto, e come abbiamo detto ieri creano anche un collegamento nascosto, sottilissimo, con i quartetti precedenti, con la grande fuga e con il quartetto opera 132. Ascoltiamo l'esposizione di questo movimento, che è una sorta di singolarissima fusione fra rondò e sonata. Vi faccio notare, vi farò sentire il punto in cui arriviamo al secondo tema. Il secondo tema è una meraviglia lirica straordinaria, in cui il primo violino va in regioni acutissime. E gli altri strumenti hanno queste frasi liriche formidabili, perché il secondo tema di questa forma sonata viene esposto nella tonalità canonica, quella che ci aspetteremmo in un movimento in questa tonalità, ma nella ripresa avremo una grande sorpresa. Ascoltiamo l'inizio di questo allegro, ultimo movimento del quartetto opera 131. Ecco le quattro note. Sentite il ritmo saltellante, eroico. Con l'altro tema, sempre sulle quattro note, con il ritmo della fuga, adesso al basso, sentite, si accenna proprio il tema della fuga, dei violini. Eccoci verso il secondo tema. Questi scatti verso l'acuto, sentitelo, cantabile, espressivo, scrive Beethoven. E qui c'è la ripresa del tema iniziale, quindi stiamo andando verso lo sviluppo. Vi ho detto, c'è qualcosa anche del rondò, quindi torna il tema iniziale in una tonalità particolare. Avete sentito il contrasto fra questi due temi? Questo carattere irruento, eroico del tema iniziale, invece questa sublime rilassatezza del secondo tema, che è un caratteristico contrasto, che però in questo caso Beethoven porta proprio agli estremi. Abbiamo il tempo di sentire la fine dello sviluppo e la ripresa e anche la coda. Volevo semplicemente mettere in evidenza un paio di elementi. Il primo è questa particolarità, la ripresa comincia in una situazione di tensione, perché abbiamo tutti gli strumenti che tengono questo. Quindi la ripresa comincia su una sorta di pedale agitato, che sono proprio. Sono le due note su cui cominciava la fuga, ma un aspetto ancora più importante è che il secondo tema in questa ripresa si presenta misteriosamente nella tonalità sbagliata, cioè non torna nella tonalità principale, che è questa, ma torna, guarda caso, in. La tonalità principale è questa e il secondo tema torna in questa tonalità. Che tonalità è? Re maggiore. Cioè, il rapporto che c'è fra il tema principale e il secondo tema nella ripresa è lo stesso rapporto fondamentale che noi troviamo nei temi di questo quartetto, nel tema della fuga, nel tema del finale e nei rapporti tonali all'interno del quartetto, questa ultima suprema sintesi. Il tema poi scivola, torna nella tonalità principale, ma nella coda ancora un paio di volte avremo delle sospensioni improvvise in cui Beethoven sta finendo. Ancora una volta ci ripropone lo stesso scalino. Ascoltiamo, spero riusciamo a sentirlo per intero. In ogni modo io vi saluto, vi ringrazio. È stato un bellissimo percorso insieme a voi. Vi do appuntamento la prossima settimana per una nuova coppia di lezioni di musica. Ecco lo sviluppo, il finale e vi guido un po' durante l'ascolto. Attenzione, ecco questa oscillazione di due note. E qui sentite che arriva direttamente la ripresa, questo senso di inquietudine. Altro tema sempre sulle quattro note, il ritmo della fuga. Adesso sentite dove si sposta nella ritransizione? Siamo in re, ecco il secondo tema. La tonalità sbagliata? No. La tonalità che si contrappone alla tonalità fondamentale per tutto il quartetto. Sentite come scivola adesso e torna. Torna nella tonalità fondamentale, eccola. E questo è di nuovo il secondo tema, la tonalità giusta, fondamentale. Qui comincia la coda. Sembra che stia finendo, attenzione alla sospensione, ancora l'ultimo accenno allo scalino, eccolo! Tonalità fondamentale ancora, l'ultimo riassunto. Radio 3 Lezioni di musica a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare il quartetto Opera 131 di Ludwig van Beethoven dal sito di radio3.rai.it cliccando su Classica Radio 3.